le lacrime mattava, gli urlava, mi ricordo di un altro momento, come se sbucciare una dolce voce che mi chiamava. Estaba loco, enamorarme otra vez.